approche nous nous tient au fond. You cannot came out. Inti ovich mame no mi. Il mi passiona. Prossimo te io fuoco che non chema e ti ovi ma me mi io mi passerà se mi vergogna. Já li.